2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda venerdì tra le 22 e le 23, domenica tra le 13 e le 13.30. Dunque, non c'è ancora nessuna novità sul piano banda ultra larga del governo. Ricordiamo che è stato approvato un piano strategico delle linee guida che necessitano di un decreto attuativo o di un altro provvedimento che abbia valore di legge. Quindi bisogna attuare questa strategia. Quindi siamo ancora in attesa e dal modo con cui il governo attuerà questa strategia si capiranno molte cose. Allora, parallelamente c'è anche il dossier MetroWeb, che potrebbe o dovrebbe essere la società che costruirà una buona parte della nuova rete in fibra ottica. In questa società che è già operativa, esiste già e vende servizi in fibra ottica alle aziende che poi erogano il servizio ai consumatori finali in alcune città, Milano, Torino, Bologna, Genova, fibra ottica direttamente nelle case degli italiani. Allora, in questa società Telecom, nella espansione di questa società, poi vedremo con quale veicolo, se ci sarà un aumento di capitale, se ci sarà un'altra società tra le società che appartengono al gruppo MetroWeb. Allora, in questa nuova società Telecom vorrebbe avere la maggioranza e qui stanno i problemi. Però il contesto attuale non sembra favorevole a Telecom. Il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, che è un azionista molto importante di MetroWeb, anche ai microfoni di 2024, vari altri esponenti hanno espresso l'esigenza, la necessità che la nuova società della rete in Italia sia una società aperta a tanti azionisti. Non è un caso che proprio la settimana scorsa abbiamo commentato la firma di un accordo che poi vedremo come si come evolverà, come si concretizzerà, tra Vodafone e MetroWeb. Quindi pare che appunto questo contesto non sia così favorevole a Telecom, però vedremo, visto che non è detta l'ultima parola, visto che non è stato deciso ancora nulla. È chiaro però ed è evidente che difficilmente ci saranno due società che si occuperanno della rete o comunque di un grande pezzo nascente di una prossima rete in fibra ottica in Italia. Questi sono due dossier paralleli, quello del governo e quello legato a MetroWeb, paralleli e concatenati. C'è invece una notizia molto interessante che arriva da Bruxelles, dove la Commissione europea ha approvato a metà della settimana i primi punti di quella che a maggio dovrebbe diventare la strategia per la creazione del Digital Single Market, cioè il mercato unico digitale europeo, perché paradossalmente è molto più aperto, ci sono molti meno confini nel mercato fisico, anche se ce ne sono ancora molti, direi troppi, ce ne sono comunque meno rispetto al mercato digitale. Lo proviamo sulla nostra pelle tutte le settimane, tutti i mesi, insomma, quanti servizi vengono annunciati e vengono aperti magari in un paese o in un gruppo di paesi, ma non in tutti i paesi europei. Invece l'intento l'obiettivo della Commissione europea è quello di creare un unico mercato. Se si apre un servizio in un paese, questo deve essere accessibile a tutti i cittadini dell'Unione europea. Le nostre notizie in breve, le nostre Digital News. Digital News. Abbiamo parlato recentemente di hard disk esterni, di NAS e dell'importanza del backup dei propri dati, del salvataggio dei propri dati. Una ulteriore spallata agli hard disk arriva da Amazon, che ha lanciato Cloud Drive Unlimited Everything. Allora, per $59 all'anno si ha a disposizione spazio cloud illimitato, si può salvare tutto quello che si vuole. $59 all'anno sono di fatto meno di $5 al mese. Digital News. Dopo YouTube, anche Facebook ha annunciato il supporto ai video a 360 gradi. siamo agli inizi di questa nuova dimensione del video, che è pensata sostanzialmente per la realtà virtuale, e vedremo molti altri servizi nei prossimi mesi. A proposito di video, 180 film di Rai Cinema saranno presto disponibili per l'acquisto e il noleggio su Google Play Movie. È la prima volta che sul sistema di Google ci sono contenuti di una TV, di un broadcaster, e non di una major cinematografica. La finlandese Supercell si conferma il numero uno dei giochi su piattaforme mobili, dei videogiochi. L'azienda produce solo 3 videogame: Clash of Clans, Heyday e Boom Beach, spesso numeri uno nelle classifiche sia di iOS che di Android. L'azienda ha triplicato il fatturato nel 2014, toccando 1,7 miliardi di dollari. Pensate, ci lavorano appena 150 persone, fanno 1,7 miliardi di dollari. Il margine operativo è raddoppiato a 565 milioni di dollari. Uno dei temi ricorrenti quando si parla di telecomunicazioni in questi mesi è l'imminente consolidamento del settore, che vede margini sempre più ridotti e quindi l'esigenza di aumentare le dimensioni degli operatori. Un'operazione che va in questo senso arriva dalla Gran Bretagna, dove Telefonica ha venduto O2 alla cinese Hutchison Whampoa, che controlla in UK, in Gran Bretagna 3, lo stesso operatore che esiste anche in Italia, sempre controllato da Hutchison Whampoa, la cinese Hutchison Whampoa. La fusione di O2 e Three darà vita al più importante operatore britannico di telefonia mobile con 31 milioni di clienti. Ultima notizia riguarda la Document Foundation, che è al lavoro per rendere disponibile anche in cloud la suite software da ufficio LibreOffice. Si chiamerà LibreOffice Online e si pone come alternativa libera a soluzioni proprietarie come Google Docs e Microsoft Office 365. Questo è 2024, siete su Radio 24, adesso parliamo di sistemi di pagamento digitale. Vedremo cambiare molto questo settore nei prossimi mesi. Potremmo dire che il sistema di pagamento europeo SEPA sta creando un ambiente favorevole all'innovazione e appunto nei prossimi mesi, anni, cambieranno molte cose. Allora, questa sera parliamo di un servizio che si chiama Satispay, ma parliamo di un servizio per cercare di capire che cosa sta cambiando. Una delle cose che stanno cambiando è che con lo smartphone, grazie allo smartphone e agli smartphone, potremo scambiarci denaro virtuale in modo molto semplice, ma potremo fare molte altre cose. Beh, ridurre ad esempio il pericolo di furto del denaro fisico, ma come dicevo, molte altre cose. Abbiamo incontrato Alberto Dalmasso, che è uno dei fondatori di Satispay. Ma quello che sta succedendo è che siamo arrivati a un punto in cui l'evoluzione tecnologica e normativa hanno in sostanza creato i presupposti per l'ingresso di nuovi attori sul mercato che possono portare efficienza e riduzione dei costi e migliori servizi. In particolare in Europa, più che in ogni altro continente, creando uno standard di transazioni, quelle SEPA, che funzionano in 34 paesi, si è creato uno standard di comunicazione che in sostanza consente di creare delle piattaforme che abilitino transazioni da e verso qualunque conto corrente in tutti questi paesi. Quindi potremmo dire che da questo punto di vista l'Europa è una buona opportunità. Sì, da questo punto di vista l'Europa è una buona opportunità ed è impressionante quello che è riuscita a fare. Se ci pensate, non solo ha messo d'accordo 34 paesi, ma tutte le banche di 34 paesi, con semplicità, dicendo d'ora in poi tutti gli standard di transazioni di accredito e addebito funzioneranno nello stesso modo. E lo si vede anche se guardiamo i dati di investimenti nel fintech, quindi dove la tecnologia entra nel mondo finanziario, gli investimenti sono decisamente consistenti, 6 miliardi nell'ultimo anno, e in Europa hanno un tasso di crescita più alto di quello statunitense. Questo probabilmente perché i grandi investitori si sono resi conto di questa nascita di piattaforme tecnologiche abilitate da nuove normative, in sostanza. Quindi voi siete una espressione della fintech, cioè della tecnologia al servizio della finanza. Esatto, assolutamente. Una delle piattaforme che questa evoluzione normativa e tecnologica hanno abilitato. Hanno abilitato l'ingresso di tecnologia in un settore che fino a un paio d'anni fa, possiamo dire, era molto difficile da innovare, proprio perché si reggeva su accordi e standard che stavano tra singoli operatori che si accordavano con altri operatori per fare transazioni, fare credito, eccetera. Invece adesso la tecnologia abilita la creazione di piattaforme molto efficienti e molto sicure e la normativa ne ha concesso l'ingresso sul mercato. Questo è il contesto. Allora, a questo punto la domanda è: ma voi che cosa fate? Satispay che cosa fa? Satispay è un circuito di pagamento utilizzabile da chiunque abbia un conto corrente in Europa, semplicemente scaricandosi la nostra applicazione gratuita. Quello che consente di fare è di inviare e ricevere denaro dalle persone nella propria rubrica, come si inviano e ricevono messaggi da WhatsApp, indipendentemente da quale sia la banca, di chi invia il pagamento e di chi lo riceve, perché proprio sfruttando questo contesto di standard delle transazioni noi funzioniamo per chiunque abbia un conto corrente e consente di pagare presso esercenti fisici online convenzionati. Il fatto di aver gestito in modo efficiente con una piattaforma tecnologica innovativa tutte le movimentazioni di denaro e ciò che ci ha consentito di abbassare i costi e quindi dare servizio completamente gratuito ai privati che invino, ricevano denaro. Considerate che il denaro che chi usa Satispay riceve eventualmente da amici con cui è andato a cena fuori, se è più di quanto vogliono tenere su Satispay va direttamente sul loro conto corrente, quindi è denaro effettivo, non rimane lì nel mezzo come succede per esempio con PayPal o altri sistemi, e ci consente di chiedere agli esercenti una commissione di 20 centesimi solo se incassano pagamenti sopra i 10 euro. Quindi non c'è più il problema di sentirsi dire no al pagamento del caffè perché non ha senso pagare una commissione per incassare un euro. Questo è quello che vogliamo fare noi, è portare la comodità delle transazioni elettroniche in tutte quelle transazioni che facciamo ogni giorno per dividerci il pranzo con gli amici o pagarci un caffè, dove ad oggi la transazione elettronica è inutilizzabile. Quindi facciamo degli esempi concreti. Se io ti devo dare 5 euro perché me li hai prestati, perché siamo andati a mangiare un panino, come funziona? Che cosa devo fare? Semplicemente accedi all'applicazione, scegli invia denaro a un contatto, vedrai nella tua rubrica chi ha Satispay. Siccome io ho Satispay, selezionerai il mio nome, digiterai 5 euro e darai l'ok. A quel punto io ricevo in real time quel denaro sulla mia applicazione Satispay. Se non fossi stato un utente Satispay, selezionando il mio nome mi avresti potuto invitare a iscrivermi al servizio e quindi una volta iscritto avrei potuto ricevere quel denaro. Io devo comunque avere del denaro nel, chiamiamolo, borsellino elettronico di Satispay. Sì, esatto, è un circuito prepagato, quindi chi si iscrive a Satispay decide quanto vuole avere su Satispay e siamo noi a effettuare una ricarica andando a prelevare i soldi da quel conto corrente. Preleviamo solo ed esclusivamente quanto richiesto dall'utente, che in qualunque momento può riportarlo a zero, ma guardando, diciamo, una scelta che abbiamo fatto guardando a quanto stanno crescendo i sistemi prepagati da utenti, pensiamo che sia proprio perché l'avere un prepagato, quindi un serbatoio staccato dal mio conto corrente per pagare, mi dà un po' più di fiducia, cioè so che io non sto andando ad attingere direttamente da tutta la mia disponibilità, ma ho come un portafoglio staccato, come quando uso le carte prepagate per comprare online. Oltre alla fiducia c'è il solito tema della sicurezza. Quanto è sicuro questo sistema? E poi anche una domanda su internet. Se io non ho internet nel momento in cui devo fare un pagamento, che cosa succede? Allora, sulla sicurezza ci sono due punti di partenza base che fanno capire perché questo sistema è di base più sicuro di quelli che attualmente sono sul mercato. In primis, noi all'iscrizione chiediamo l'IBAN e non i numeri di carta di credito. L'IBAN è un dato che qualora dovesse essere rubato, non può essere usato per fare pagamenti in nome del titolare di quel conto corrente. È un dato che può solo essere usato da chi viene direttamente autorizzato eventualmente a fare degli addebiti su quel conto, e ogni addebito nel mondo interbancario è verificato dalla banca del debitore e del creditore. Quindi la possibilità di addebitare in modo fraudolento è praticamente pari a zero, e il cliente ha tutti gli strumenti per verificarlo e annullare eventuali addebiti che non dovessero essere eseguiti. Quindi già questo lo eleva, il fatto di non usare i numeri della carta, che se rubati possono essere usati per fare un pagamento immediatamente da chiunque. E il secondo elemento è la fisicità del telefono, cioè il mio account Satispay può essere usato solo dal mio telefono, quindi io ho sempre bisogno di autorizzare la transazione con il codice PIN a 5 cifre dal mio telefono. Se voglio abilitare il mio account da un altro telefono, faccio un processo che mi riverifica il telefono e annulla il telefono precedente. Quindi è come se io avessi sempre un token per autorizzare le transazioni. Rispetto a una carta che presa può essere usata per pagare, ha anche il vantaggio che quando perdo uno smartphone me ne accorgo immediatamente, magari quando dimentico una carta di credito posso metterci alcuni giorni a ricordarmelo. L'assenza di internet: al momento la transazione può essere fatta solo se c'è campo, solo se c'è connessione. Stiamo lavorando per abilitare delle transazioni anche offline, sfruttando la prossimità come il Bluetooth, eccetera. Però per il momento il servizio funziona solo se c'è connessione internet. Speriamo che qualcun altro si prenda in carico l'obiettivo di aumentare la connettività. Sì, c'è un grosso dibattito in atto, quindi su quello sicuramente ci sono altri che ci stanno pensando. Senti, di fronte all'NFC qual è il vostro atteggiamento? Visto che il sistema bancario, gli operatori telefonici, poi altri operatori come Apple, come Google, stanno guardando e stanno anche attivando, hanno già attivato servizi per il pagamento in prossimità, micropagamenti, avvicinando il telefono a un POS abilitato. Nonostante l'industria ci stia investendo, noi non ci crediamo. Lo abbiamo anche testato, non riteniamo che dia valore aggiunto il fatto di dover appoggiare il nostro telefono a un POS. Se dobbiamo immaginare innovazione, quello che abbiamo fatto noi è stato creare un sistema che del POS può fare a meno. Quindi se invece di strisciare una carta appoggio al telefono, non c'è un gran vantaggio. Noi quello che facciamo è consentire lo scambio tra privati semplicemente andando dalla rubrica e il pagamento nei negozi con un processo che gli utenti hanno dimostrato apprezzare, che è quello del check-in. Quindi io dico che sono al caffè Roma, che devo pagare 3 euro, digito 3 euro e do l'ok, e il caffè lo vedrà sul suo dispositivo, accetterà la transazione. Questo abilita delle nuove logiche, che io paghi dal tavolo senza bisogno di avvicinarmi a un POS, che io paghi anche se il cameriere non mi si avvicina, e oltretutto da un punto di vista di sicurezza il fatto che la transazione non passi dal telefono a un POS evita che ci sia uno scambio di dati tra due dispositivi che può generare il fatto che questi dati siano intercettati e usati poi per fare delle frodi. Sì, poi tu sai che di fronte a questo gli operatori di quel settore dicono ma le frodi sono ridotte al minimo, poi il consumatore non se ne deve preoccupare perché eventualmente è in carico nostro, eccetera, eccetera. È chiaro, però farsi carico, bisogna ridurre le frodi, perché se è vero che ce ne fa, in quanto fornitori di servizi di pagamento ci si fa carico delle frodi per dare un buon servizio al cliente, ma farsi carico di frodi vuol dire aumentare i costi di erogazione del servizio e in un modo o nell'altro i costi o del consumatore o dell'esercente. E questa era la voce di Alberto Dalmasso di Satispay. Allora, un servizio simile, per certi versi non completamente uguale, è quello di UbiPay, di UbiBanca, ma naturalmente bisogna essere clienti di quella banca, e anche PayPal permette di fare alcune delle cose che permette di fare Satispay. Però sicuramente questo servizio è abbastanza unico nel suo genere per le cose che abbiamo descritto, soprattutto, e questo effettivamente è un aspetto molto interessante, per i micropagamenti non paga né, beh, allora il cliente non paga mai, per fare pagamento e trasferimento di denaro il consumatore finale, ma per l'esercente può incassare anche un euro, due euro, tre euro, fino a 10 euro, non paga nessuna commissione, e c'è una commissione fissa di 0,20 sopra i 10 euro, che mi sembra insomma un aspetto interessante, che va anche incontro alle critiche di molti anche nostri ascoltatori o comunque esercenti che sono un po' resti a passare al pagamento digitale. Poi in realtà, se uno va a fare un'analisi al costo del contante, scopre che anche il contante ha un costo, oltre che i rischi dovuti alle rapine e ai furti in genere. Dunque, poi se parlate con gli operatori telefonici, tutti quelli che sono nati con servizi attorno al pagamento con NFC, vi diranno, come hanno detto ai microfoni di Radio 24 quando li abbiamo intervistati, che l'NFC ha alcuni vantaggi: l'immediatezza, perché io avvicino il telefono al POS e quindi pago senza fare nessun tipo di altra operazione, eccetera eccetera, ma insomma sono pareri diversi. Ma la cosa importante che vorrei far comprendere, perché questo poi è il motivo per cui parliamo di pagamenti digitali, e che stanno succedendo alcune cose interessanti, anche questo tipo di servizio sta diventando liquido, così come è successo con la musica, con il video. Anche il mondo dei pagamenti sta subendo cambiamenti molto forti, e alcuni li stiamo già vedendo e osservando, altri li vedremo nei prossimi mesi / anni. Probabilmente, ma diciamo probabilmente, non è detto che le banche siano protagoniste di questo, di questa rivoluzione, anzi alcune banche stanno guardando proprio alle start-up, perché l'innovazione arriva dalle start-up. Bene, tra poco cambiamo argomento, parleremo di salute digitale. Ci sono strumenti che permettono allo smartphone di diventare un hub di dati della nostra salute. Ne parliamo tra poco, questo è 2024, io sono Enrico Pagliarini, siete all'ascolto di Radio 24. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Potete visitare il nostro nuovo sito internet www.radio24.it, potete riascoltare questa puntata in podcast direttamente dal sito, oppure potete abbonarvi tramite le piattaforme più diffuse come iTunes, TuneIn Radio, ma anche le tantissime applicazioni sia per iOS che per Android che per Windows Phone, che permettono appunto di abbonarsi e scaricare i podcast. Andate direttamente in queste piattaforme, cercate 2024 nelle piattaforme più note e diffuse, ci trovate molto facilmente. Se avete problemi, difficoltà, scriveteci una bella email e vi daremo le indicazioni. Dunque, sono oramai molti gli strumenti che possono essere collegati allo smartphone per misurare i nostri dati biometrici: la pressione arteriosa, il battito cardiaco, il peso, quanto corriamo, quanto dormiamo, eccetera eccetera. Possiamo aggregare questi dati, possiamo fare un'analisi di questi dati, ed eventualmente stanno nascendo anche i primi servizi per connettere il nostro medico alla nostra scheda personale. Quindi il medico può vedere questi dati biometrici. In questo modo lo smartphone diventa anche un potente strumento di prevenzione, perché un conto è andarsi a far a controllare, andare dal medico per i controlli una volta ogni tanto, un conto è poter misurare questi dati con costanza. Certo, ci sono altri strumenti che permettono di fare questo, trovarsi la pressione in casa, il battito cardiaco, ma chiaramente se tutto questo viene genera dati che confluiscono nello smartphone, all'interno dello smartphone poi possiamo vedere dei diagrammi che ci rappresentano questi dati ora dopo ora, giorno dopo giorno, ed eventualmente questi dati possono essere messi a disposizione, condivisi anche col medico o una struttura sanitaria. Beh, potete capire che proprio come strumento di prevenzione è molto efficace, molto importante. Allora, di questo abbiamo parlato in un'altra puntata di 2024, ma recentemente ho fatto un'intervista con Marco Peluso, che è l'amministratore delegato, detto all'italiana, ma il CEO, Chief Executive Officer di Quardio, che è una società americana ma fondata da italiani, che produce proprio sistemi di questo tipo, prodotti da collegare allo smartphone, ma anche servizi, perché, come abbiamo detto più volte, il prodotto senza un servizio, beh, vale fino ad un certo punto. Chiaramente il servizio può estendere le funzionalità di un prodotto. Sentiamo Marco Peluso. Abbiamo tre prodotti: Quardio Arm, che è un misuratore della pressione, Quardio Base, che è uno dei prodotti che lanciamo quest'anno, che è una bilancia, e poi il Quardio Core, che è invece un misuratore oltre elettrocardiogramma indossabile. Questi strumenti si connettono al mio smartphone. Io raccolgo di fatto delle statistiche dei miei battiti cardiaci, della pressione, del mio peso. Facci capire questi dati, poi come li posso utilizzare, che tipo di vantaggi ho da uno strumento del genere che si connette al mio smartphone. Allora, è davvero interessante. Noi troviamo che ci sono adesso sul mercato molti prodotti per la misurazione dei passi, che sono anche molto carini e facili da usare, però hanno un valore limitato, no? I famosi braccialetti di cui parliamo tantissimo. Esatto, questi prodotti hanno un po' un valore limitato, mentre invece il nostro focus è proprio su prodotti che hanno un valore medicale, quindi prodotti che sono consumerizzati, quindi il consumatore li trova approcciabili, che però invece hanno un valore diagnostico per il dottore, per il medico di famiglia, per il cardiologo, che possono utilizzare quindi le misurazioni che arrivano dai nostri sensori per diagnosticare problemi o aiutare i pazienti a star meglio. Quindi avviciniamo il paziente al dottore, diamo un po' più di potere al paziente, di capire la propria salute come evolve, e anche come piccoli passi fatti nel quotidiano possono migliorare la salute. Mi fai un esempio di come io posso utilizzare, ad esempio, lo strumento che misura il mio battito cardiaco? Che tipo di dati raccolgo e soprattutto come li vedo, che tipo di statistiche posso fare sul mio smartphone? Allora, il Quardio Core in realtà è un prodotto che misura un elettrocardiogramma a tre tracciati, oltre che la temperatura corporea e l'attività fisica, quindi ci sono diverse informazioni che mostriamo al paziente rispetto al dottore. Il paziente vede delle informazioni semplificate che l'aiutano a comprendere un po' lo stato generale della sua salute, piuttosto che altri aspetti quali l'attività fisica o il livello di stress. Quindi guardiamo per esempio la risposta galvanica della pelle, piuttosto che alla variabilità del battito cardiaco, per guardare questo tipo di aspetti. Il dottore invece guarda al tracciato dell'elettrocardiogramma vero e proprio, che viene analizzato con vari tipi di algoritmi per aiutare il dottore ad effettuare una diagnosi. Un esempio pratico, quindi, da un punto di vista più medico, è appunto la persona che magari ha avuto un fenomeno di fibrillazione atriale che va monitorato, anche se è stato magari tamponato da un intervento medico. Allora, normalmente queste persone vanno periodicamente, ogni magari 3-4 mesi, dal dottore per fare dei controlli, e sono in realtà scoperti tra un controllo e l'altro. Con il Quardio Core ci si può facilmente monitorare tutti i giorni su base continua. Noi abbiamo un sistema molto semplice che si chiama Quardio MD per il dottore, per monitorare velocemente centinaia di pazienti in un batter d'occhio, e quindi il paziente è coperto 365 giorni all'anno, e il dottore può fare molto meglio il suo lavoro con una base di dati molto più contestualizzata e più completa. Quindi questi dati io li raccolgo, li metto sul mio smartphone, e poi dallo smartphone vanno su internet, anche sulla piattaforma del dottore, nella vostra piattaforma, ma poi a questo servizio che voi offrite ai medici. Esattamente, adesso le tecnologie ci consentono una modalità d'uso che è molto semplice, sia da un punto di vista dell'indossabilità, del design di questi prodotti, ma anche della connettività di questi prodotti. È proprio lì che si introduce un forte elemento di valore per questi prodotti. Una volta, con metodi tradizionali, bisognava raccogliere i dati, queste misurazioni, e poi su base cartacea farle un po', tra virgolette, viaggiare tra un dottore e l'altro, ricordare di doversi portarsele dietro. Invece con questi sistemi digitali noi possiamo portare i dati quasi istantaneamente nelle mani delle persone che possono poi sfruttare per estrarre il massimo valore. Quindi si va incontro agli interessi di tutti gli attori del sistema sanitario. Ecco, a proposito degli attori, chi può, naturalmente dopo l'autorizzazione che il paziente dà, chi può utilizzare proprio a livello generale questo sistema medico? Ci sono i medici, le assicurazioni, i dottori, il sistema nazionale pubblico, soprattutto in Europa. Questi dati viaggiano, che tipo di utilizzo se ne può fare? Allora, innanzitutto il sistema sanitario è molto complesso, cioè una grossa varietà di attori che poi tra l'altro cambia anche da paese a paese. La cosa però che è interessante, che si sia verificata adesso, che gli interessi di questi vari attori, per quanto complessi, si sono allineati, per cui stiamo vivendo in un momento in cui tutti gli attori vogliono contribuire a un sistema che sia più snello, che sia più economico, più efficiente e semplifichi la vita un po' a tutti. Quindi con la nostra piattaforma possiamo, anche con integrazioni che per esempio abbiamo con Apple, siamo stati la prima azienda con prodotto medicale integrato con il nuovo sistema Apple Kit disponibile sul mercato. Puoi collegare queste informazioni e farle viaggiare con la tua assicurazione sanitaria, col tuo cardiologo, col tuo medico di famiglia o anche con altri familiari, per cui puoi introdurre anche degli elementi di supporto, di incoraggiamento. Io posso seguire a distanza mio padre e vedere se lui un po' sta seguendo il regime raccomandato dal dottore per le sue misurazioni e anche queste misurazioni come stanno andando. Quindi c'è un sistema di supporto anche a livello più umano, no? Per tutte le persone coinvolte nel mercato. Di fatto stiamo parlando di un sistema che produce dati per prevenire, giusto? Questo è esattamente l'altro aspetto interessante. Tradizionalmente la salute è tutta quanta focalizzata sull'aftercare, quindi sul seguire i problemi un po' quando è un po' troppo tardi. Invece con i sistemi come quello di Quardio è possibile focalizzarsi molto di più sulla prevenzione e quindi risparmiare i costi sia in termini economici al privato piuttosto che al pubblico, piuttosto che all'assicurazione sanitaria, sia anche in termini umani, perché ovviamente una persona che sta bene in salute vive anche meglio. Oh, naturalmente abbiamo parlato di Cardio, che è scritto con la Q di quadro e poi Ardio. Abbiamo messo sul nostro sito internet un link per avere maggiori informazioni, però di prodotti di questo genere ce ne sono già vari, ne abbiamo parlato in altre puntate di 2024, ma per farvi capire quanto oramai la tecnologia si sta evolvendo e quindi con lo smartphone si possono fare anche queste cose. Se poi pensiamo che queste applicazioni specifiche possono essere integrate sia dai sistemi di Apple sia dai sistemi di Google, che fanno un po' da concentratori di varie informazioni che arrivano da tante applicazioni, quindi magari l'applicazione che ci serve per il cuore, quella del braccialetto che usiamo per andare a correre, bla bla bla, e tutte queste informazioni hanno un valore incredibile. Certo, poi queste informazioni vanno protette, però per il sistema sanitario avranno un valore molto interessante. Adesso cambiamo argomento, decisamente argomento, parliamo di fatturazione elettronica, un argomento che può sembrare particolarmente complicato, ma in realtà poi vedrete che i nostri esperti lo renderanno fruibile a tutti. Ne parliamo perché dalla prossima settimana, dal 31 di marzo, evidentemente lo hanno fatto per evitare il 1 aprile, che non fosse un pesce d'aprile, sarà obbligatoria la fattura elettronica per tutte le aziende che vendono servizi o prodotti alla pubblica amministrazione. È una sorta di rivoluzione molto interessante, ne abbiamo parlato con Benedetto Santa Croce, che è l'esperto del Sole 24 Ore su questo tema, in generale su molti temi che riguardano la tecnologia e il fisco. Abbiamo parlato con Santa Croce di questa rivoluzione partendo dalla domanda più semplice: che cos'è questa fattura elettronica? Allora, tu all'inizio hai detto, attenzione, l'obbligo è relativo ai fornitori della pubblica amministrazione, quindi parliamo di un obbligo che evidentemente è circoscritto, per modo di dire, perché riguarda poi 17.000 nuovi uffici tra piccoli e grandi. Cos'è una fattura elettronica verso la pubblica amministrazione? Beh, attenzione, appunto, non è un documento solo elettronico, ma bisogna necessariamente rispettare diciamo un formato. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che noi abbiamo un tracciato elettronico nel quale noi dobbiamo inserire in modo sistematico e secondo uno schema predefinito quelli che sono gli elementi tipici della fattura. E quindi questo documento contiene poi tutte quelle informazioni che tipicamente troviamo all'interno di una fattura, e quindi troveremo sicuramente l'identificazione dei soggetti piuttosto che la quantità, la qualità dei beni che andiamo a trasferire. Però chiaramente quindi il primo passaggio fondamentale è rappresentato dal fatto che questo documento non può essere, diciamo, libero, ma deve essere necessariamente strutturato in modo informatico attraverso necessariamente questa costruzione vincolata dei tracciati record che lo compongono. Ulteriore elemento che caratterizza questa fattura nei confronti della pubblica amministrazione è che deve essere necessariamente chiusa attraverso una firma elettronica qualificata o digitale. Quindi i due componenti tipici che caratterizzano questa fattura sono proprio, da una parte, il tracciato, cioè il formato, che poi è un formato XML, ma comunque è un formato molto definito, e poi la firma elettronica qualificata. Quindi questo documento ha queste caratteristiche di natura tecnologica. Faccio una domanda cercando di rispondere anche alle aziende, soprattutto piccole e medie, che sono un po' spaventate, perché naturalmente alcune cose si complicano. Allora, prima di tutto mi sembra di capire che non si può far da soli, ci vogliono o software o addirittura servizi che vanno anche pagati per poter emettere fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione. Sicuramente sì, nel senso che chiaramente il primo elemento è rappresentato dal fatto che noi siamo abituati di solito a fare le fatture in Word piuttosto che in Excel, quindi con dei sistemi che sono a nostra disposizione genericamente. Qui la predisposizione, già con un formato particolare, impone l'acquisizione di un software che ci consenta o di tradurre, diciamo, il nostro normale modo di fare le fatture in un formato XML, oppure evidentemente devo andarla a digitare secondo una determinata struttura. Quindi ho sicuramente bisogno di questa acquisizione di un software, e attenzione che il sistema, in particolar modo se i nostri radioascoltatori vanno su www.fatturapa.gov.it, cioè in questo sito, sostanzialmente trovano anche, per coloro che ne possono fare poche, però, cioè coloro che ne fanno una, due, poche, trovano anche degli strumenti gratuiti, quindi possono scaricarsi un software e gestire questo rapporto in modo del tutto autonomo. Però attenzione che quando parliamo di fattura elettronica parliamo di altri due momenti fondamentali. Non è solo creare il documento elettronico con la fattura elettronica. Quando parliamo di fattura elettronica verso la pubblica amministrazione abbiamo altri due adempimenti, cioè abbiamo la trasmissione del documento e poi la conservazione elettronica del documento, quindi avviene tutto in modo elettronico. E tutte queste fasi, quindi la fase della compilazione, la fase della trasmissione, la fase della conservazione, sono gestite secondo regole piuttosto strette. Questo comporta sostanzialmente che una normale impresa, anche se riesce a gestire alcune fasi attraverso un software gratuito, nella maggior parte dei casi è costretta poi ad outsourcare in minima parte o in massima parte il servizio. Questo poi, in particolar modo, più aumentano il numero di fatture, quindi più aumentano e più la gestione diventa una gestione che non è quella normalmente utilizzata dall'impresa, e quindi l'acquisizione di software o l'acquisizione di un servizio da un provider sicuramente diventa un elemento necessario, quasi facilitatore poi dell'esecuzione dell'adempimento. Allora, si dice spesso che il software, la tecnologia semplifica le cose. Beh, in realtà non è sempre vero. È vero o no in questo caso? Riprendiamo proprio da questa domanda tra poco a 2024. 2024. Stiamo parlando di fatture elettroniche, una rivoluzione per la pubblica amministrazione e per tutte le aziende che vendono prodotti e servizi alla pubblica amministrazione. Avete sentito poco fa le parole di Benedetto Santa Croce e uno potrebbe dire: ma qui le cose diventano più complicate. Come stanno le cose? Allora, sicuramente il tema del passaggio dalla carta all'elettronica è un qualcosa che spaventa tutti e lo stiamo affrontando a diversi livelli da molti anni. Io ritengo che sicuramente in questa prima fase può sembrare una complicazione, specialmente se noi andiamo a ragionare solo e unicamente sulla gestione elettronica di una fattura, di 10 fatture. Evidentemente il concetto di dematerializzazione è un concetto molto più ampio. La fattura è un anello dell'intero ciclo passivo, dell'intero ciclo attivo di un'impresa. Chiaramente la vera semplificazione si ha solo nel momento in cui andiamo a gestire in elettronico l'intero ciclo attivo, l'intero ciclo passivo, no? Quindi dall'ordine alla fattura, al pagamento, alla contabilizzazione, no? Chiaramente visto invece isolatamente, quindi guardato isolatamente come adempimento adesso del momento, è una complicazione. Non lo posso fare più da solo, ho bisogno di un software, ho bisogno di una gestione. Evidentemente in questo caso forse il problema appunto che bisogna un po' guardare al di là del proprio naso, cioè guardare un pochettino in prospettiva, e quindi sostanzialmente sì, lo sforzo che avremo adesso e l'impegno che avremo adesso poi ci semplificherà la vita. Sicuramente l'esistenza di servizi che vengono gestiti online o in outsourcing eccetera eccetera semplificano sicuramente la vita del nostro emittente, però a questo poi si contrappone evidentemente un costo, quindi ognuno deve cercare evidentemente in base alla propria dimensione di cercare il servizio adeguato o lo sforzo adeguato. Però ecco, non sarei così negativo nel giudizio finale, perché evidentemente stiamo andando verso una vera modernizzazione del sistema. Certamente, rispondendo alla tua domanda, cioè il problema di fondo, dice, noi dobbiamo abbiamo un adempimento in questo caso. Sicuramente in questo caso, visto così, è un adempimento, è un costo, è un onere, e per giunta nella maggior parte dei casi non me lo posso fare da solo. Sì, però è chiarissimo, certo, se questo invece è un tassello di una digitalizzazione più completa, alla fine poi i risparmi ci sono, o comunque li si possono vedere anche sotto forma di maggiore efficienza di un'azienda. Certo è che magari per un piccolo falegname che deve fare, sostituire una porta in un comune, ecco, lì forse qualche problema ci può essere, però come abbiamo detto ci sono anche servizi gratuiti che vengono incontro alle esigenze di piccoli artigiani o delle piccole aziende. Ma io inviterei questi piccoli artigiani, ripeto, a due considerazioni. La prima, sicuramente se anche il mercato elettronico della pubblica amministrazione mette a disposizione un software per la gestione completamente individuale e soggettiva, quindi ognuno può farsi la sua fattura. Chiaramente, ripeto, il tema che si pone è quello di il nostro piccolo falegname dovrebbe avere un aiuto anche da parte delle piccole imprese, degli hub che potrebbero essere creati tra i professionisti, ovvero da determinate società. Però ecco, questo un altro punto che è rimasto secondo me nell'ombra in tutta questa normativa, e a me dispiace perché poi nella norma era scritto, chiaramente erano previsti degli incentivi. Se noi andiamo a prendere i decreti attuativi, dicevano chiaramente che bisognava incentivare, aiutare e quindi in qualche modo introdurre delle agevolazioni per le imprese proprio per entrare in questo nuovo mondo. Forse questo è l'unico tassello che nell'ambito della normativa non è stato adeguatamente sviluppato, pur essendoci una delega esplicita nell'ambito della norma. Certamente dobbiamo in qualche modo tutto il tessuto della consulenza e degli erogatori di servizio devono dare una mano a questo piccolo falegname, che però il nostro piccolo falegname alla fine deve entrare necessariamente nel nuovo millennio e quindi anche lui si deve adeguare, anche perché ormai a livello nazionale ma poi anche a livello internazionale evidentemente stiamo sempre di più andando verso un meccanismo e un mondo totalmente digitalizzato. E questa era la voce di Benedetto Santa Croce, esperto del Sole 24 Ore, che per tutti i lettori del Sole 24 Ore, in particolar modo di Norme e Tributi, è sicuramente una firma conosciuta. A proposito del cambiamento e delle cose che diventano più complicate, nel caso specifico parlando di fatturazione elettronica, ma possiamo allargarlo anche alla digitalizzazione dei processi all'interno di un'azienda. Abbiamo sentito il parere di Paolo Catti, che è il responsabile della ricerca dell'Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione all'interno della School of Management del Politecnico di Milano. Ma non è, secondo me, complesso, è diverso da prima, però non è realmente complesso. Senza dubbio, rispetto alla carta, è un percorso diverso, è una procedura diversa, è costituita da logiche di funzionamento lontane rispetto a quelle precedenti. No, se guardiamo formalmente al processo tradizionale, quello già oggi in essere, obiettivamente si nota che anche questo è abbastanza complesso. Certo, ci siamo abituati perché lo viviamo da anni, è il day by day di tutti i giorni. Il passaggio verso il digitale è un modo per fare questo stesso processo, ripeto, in un modo diverso, non necessariamente più complesso. È chiaro però che nel mondo analogico uno poteva fare da sé, e invece in questo mondo uno deve fare o con software o con servizi online che comunque hanno un costo. Sì, in realtà anche adesso volendo uno può fare da sé, naturalmente se è sufficientemente informato e capace di affrontare la cosa. Beh, deve essere molto informato e molto capace, perché io ho parlato con addirittura ingegneri che non hanno detto, ho gettato la spugna e mi prendo un bel servizio online. È vero, è credibile, in prima battuta è credibile. Il tema però è che soprattutto per le realtà più piccoline, al di là del fatto che deve andare verso servizi online, ci sono soluzioni addirittura gratuite, quindi sì, è vero, si fa fuori, però si fa fuori in modo facilmente gestibile, quantomeno non rappresenta un costo aggiuntivo se non quello di capire cosa occorre fare per utilizzare la soluzione gratuita. Questo naturalmente vale se si è piccoli e se si ha un numero limitato di fatture verso la PA. Se siamo un pochino più grandi si può provare a comprare un servizio che comunque costa, considerando che comprende di solito anche la conservazione digitale, meno di quelli che sono i costi che mediamente uno ha oggi e che praticamente non percepisce perché è abituato a sostenerli. Allora, questo sicuramente è un punto molto interessante, perché ci sono molte aziende, difficile quantificare le aziende, ma parlando con persone che vendono software, che producono software, che hanno soluzioni software di vario genere, non parlo solo di fatturazione elettronica, uno dei problemi che spesso incontrano è che alcune aziende, come dicevo, molte aziende, non sanno bene controllare, quantificare, misurare alcuni costi che ci sono all'interno della struttura. Faccio un esempio di chi vende software per la gestione delle flotte, quindi dei mezzi di trasporto di un'azienda. Molto spesso la risposta è: ma sono 10 anni, sono 20 anni che facciamo questo, figuriamoci se non sappiamo quali sono le strade migliori. Poi all'atto pratico si dimostra che il software collegato magari con un sistema di gestione dell'azienda, con il CRM aziendale eccetera eccetera, riesce a selezionare e a far transitare i mezzi di trasporto su percorsi molto più efficienti, risparmiando non solo tempo ma anche carburante, quindi con dei risparmi piuttosto ingenti. Però in molti casi appunto queste persone mi dicono che la risposta tipica delle persone in azienda è questa, ma ci sono insomma altri esempi che possono essere fatti in altri ambiti, quindi ad esempio quello dei pagamenti, quante sono le aziende anche piccole che non hanno ben chiaro qual è il costo della gestione del contante. Certo, in un'azienda piccola non è facile quantificarlo, può essere anche un costo che viene spalmato su pochi dipendenti o su addirittura la famiglia, e quindi sicuramente quello può essere inglobato e non considerato, però in altre aziende anche di medie dimensioni certe volte non si sa bene qual è il costo del contante, della gestione del contante, e si va a vedere in alcuni casi che la gestione del denaro digitale è inferiore, anche tenendo conto delle commissioni eccetera eccetera. Quindi questo è un punto molto molto importante, molto interessante. Allora, vantaggi della fatturazione elettronica per le aziende, e poi vediamo anche la pubblica amministrazione. Beh, i vantaggi per le aziende sono quelli di avere una serie di informazioni a valore aggiunto che prima non c'erano. Per esempio, la fattura è realmente in possesso della pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione l'ha presa in considerazione, la sta valutando ed eventualmente anche calcolare da un determinato momento ben chiaro e ben noto, cioè al momento della ricezione da parte del sistema di interscambio, lo scattare dei tempi di pagamento. Quindi anche monitorare un fenomeno che altrimenti con il processo tradizionale si era dimostrato essere totalmente fuori controllo. In più, l'integrazione tra il sistema di interscambio e la piattaforma di certificazione dei crediti consente alle istituzioni finanziarie di accedere a tutte le fatture che vanno sulla piattaforma di certificazione dei crediti, e una volta che la PA ha autorizzato al pagamento, queste possono procedere a pagarle una volta esigibili, cioè scaduti i termini di pagamento. Questo dovrebbe effettivamente rappresentare un ottimo tentativo per affrontare l'evoluzione dei tempi di pagamento fuori controllo. In più ci sono una serie di benefici legati all'efficientamento interno su alcuni processi, legati in particolare alla riduzione della stampa e dell'imbustamento, che sembra assurdo, però molte imprese tuttora sostengono, piuttosto che a quelle che sono le tematiche legate alla conservazione. L'archivio fisico non è completamente gratuito, sembra che lo sia perché uno lo vede lì e è abituato a trovarselo, come dire, fuori dall'ufficio, ma in realtà ha dei costi di occupazione, in alcuni casi ha dei costi anche significativi, basta pensare a qual è l'ambiente specifico in cui viene conservato un archivio da parte di un'organizzazione. Naturalmente più è grande più è significativo questo costo, e poi c'è tutto un tema legato alla postalizzazione. Essenzialmente come dimensioni di costo sono riconducibili due voci: da un lato quelli di manodopera per dover produrre le fatture e assicurarsi che siano inviate e poi ricercarle nel momento in cui questo non si ha traccia che siano arrivate alla pubblica amministrazione, e dall'altro tutta una serie di costi legati invece ai materiali. Sono particolarmente significativi? No, ma stimiamo che, voto per pieno, all'interno delle organizzazioni più strutturate possano arrivare a costare fino a circa 10 euro a fattura, anche qualcosina di più. E quindi il beneficio complessivo che la pubblica amministrazione si porta a casa rischia di essere addirittura di 8 euro a fattura, pari più o meno all'80%. Cioè, questo costo è un costo per la pubblica amministrazione o per l'azienda? No, per l'azienda che fattura la PA. Nelle realtà più piccole questo costo è evidentemente un pochino più basso, però ci si può portare a casa comunque una dimensione di miglioramento legata a tutti i benefici, non strettamente di produttività, di cui le parlavo prima, la certezza che la fattura è arrivata e così via. Eccetera, eccetera. Principali vantaggi per la pubblica amministrazione? Ecco, qui il tema è che formalmente la pubblica amministrazione ha un processo basato non tanto su quello che è il miglior processo possibile, quello ottimizzato per definizione, ma ha un processo basato su procedure che garantiscono la trasparenza, la tracciabilità e, se vogliamo, anche la responsabilità specifica di chi lo affronta internamente all'ente. Per questo motivo le regole con cui ad oggi si gestisce la fattura cartacea, diciamo così, sono non votate all'efficienza ma votate ad altri principi, quindi i costi di gestione all'interno della PA possono essere un pochino più alti, dai 15 addirittura ai 20 euro a fattura. In questo caso il beneficio della fatturazione elettronica con i crismi del digitale a tutto tondo, quindi mantenendo la fattura secondo il suo formato digitale lungo il suo percorso di gestione anche interno alla pubblica amministrazione, possono arrivare fino a 17 euro a fattura. Anche in questo caso quindi una percentuale decisamente rilevante di abbattimento di quella che è la struttura di costi, una parte significativa, quasi superiore all'80%, sono costi di manodopera, quindi non immediatamente appropriabili, ma su cui è possibile costruire efficienza, e un'altra parte legata anche in questo caso a consumabili e spazio. Senta, se un'azienda fa fatture elettroniche ad altre aziende, quindi tra privati, la procedura e gli standard sono gli stessi? In realtà nel nostro paese esistono già modelli per fare fatturazione elettronica nel cosiddetto B2B e ad oggi non prevedono l'utilizzo del tracciato fattura PA o altri modelli come quello del sistema di interscambio. Sono modelli che si sono sviluppati naturalmente tra le imprese che volevano creare efficienza nelle loro relazioni. Sono tipici di alcuni settori in particolare, nel largo consumo, nell'elettronica di consumo, nel materiale edile, nel materiale elettrico, nel farmaceutico. Lì dentro evidentemente dinamiche di questo tipo esistono, qualcosa di analogo c'è anche nell'automotive, esiste qualcosa di simile in tutte le situazioni dove abbiamo un'impresa focale che ha sviluppato una extranet con cui si relaziona con i propri fornitori. Come dire, dinamiche di questo tipo sono già state sviluppate, non legate a quello che è il tracciato fattura PA. L'ipotesi è che il tracciato fattura PA possa, se ben compreso dalle imprese, rappresentare quel trigger di attivazione che lancia tutta una serie di realtà piccoline verso la gestione digitale della fatturazione. Lato attivo, quindi non solo verso la PA, e magari anche lato passivo, perché poi a ricevere dati in formato elettronico strutturato ci si può portare a casa i benefici di risparmio che la stessa PA si porta a casa ricevendole. Senta, all'estero com'è la situazione? Fanno come la nostra pubblica amministrazione? Dipende, in alcuni casi la logica è esattamente la stessa, sono magari un pochino più indietro con le scadenze specifiche per lo standard. Ecco sì, in effetti va detto che non siamo i soli a livello europeo a fare fatturazione elettronica. Già in altri paesi questo tipo di progettualità è stata lanciata, spesso non necessariamente partendo con l'obbligo anche del formato XML, quindi del formato elettronico strutturato. Però, come dire, questo tipo di percorso altrove in qualche paese, in Finlandia, ma penso anche al Portogallo, in Spagna dal 1 gennaio 2015. Quindi questo tipo di fenomeno spinto a livello europeo evidentemente sta un po' attecchendo. Il fatto che lo facciamo anche noi con due accortezze particolari, quello del file in formato elettronico strutturato e quello della firma digitale, che poi peraltro è funzionale alla conservazione digitale che prevede il nostro regolamento, secondo me è un'ottima, e non solo secondo me, in realtà anche a livello europeo è stato particolarmente apprezzato perché è un po' all'avanguardia su questo fronte. Ma esiste uno standard unico in Europa? Cioè se io sono un'azienda e mi doto di servizi online oppure di software per fare fatturazione elettronica alla pubblica amministrazione in Italia, posso con lo stesso sistema fare fatture anche ad altri stati che hanno adottato questi sistemi? Specificatamente con il formato tracciato fattura PA no, perché è un formato che funziona esclusivamente a livello italiano ed è un XML che ha i tag in italiano, quindi per definizione fa fatica a superare i confini del nostro paese. Però è allo studio a livello europeo una commissione specifica che sta lavorando al core invoice, cioè un set ottimale composto da poche istruzioni estremamente condivisibili a livello dei diversi paesi, che dovrà essere accettato da qualunque paese. Stiamo parlando di qualcosa che è fantascientifico? No, stiamo parlando di qualcosa che entrerà in vigore voto per pieno tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019. Questo per regolamento europeo oltretutto, quindi senza necessariamente dover passare dalle forche caudine dell'allineamento ai nostri quadri regolamentari interni. Perciò in questo senso l'importante è passare al formato elettronico strutturato. Una volta che sapremo gestire il tracciato fattura PA, prendere in pancia questo tipo di innovazione sarà nettamente più semplice che non passare dalla carta o in generale dall'analogico allo strutturato. Quindi in pratica l'abbiamo fatta un po' difficile e poi la si semplificherà grazie all'Europa. Potrebbe essere così. Non siamo stati molto saggi. Beh, però in questo momento rappresenta un elemento di partenza che coinvolge un numero decisamente rilevante in termini di enti della pubblica amministrazione e anche non banale in termini di imprese. Il rischio, se così si può dire, di essere semplicistici in questa fase poteva essere altrettanto negativo. Diciamo che è stato definito un tracciato che guarda a tutte le esigenze, alle più importanti esigenze, non soltanto quelle di carattere fiscale, ma anche quelle che facilitano i processi interni di riconciliazione nelle documentazioni della pubblica amministrazione per velocizzare il passaggio al pagamento. Ultima domanda, a livello generale quanto ci fa risparmiare tutto questo meccanismo? Nell'ipotesi che le imprese colgano l'opportunità di capire di che cosa si tratta in modo efficace e che le pubbliche amministrazioni facciano quello che noi chiamiamo fare bene fatturazione elettronica, cioè accettare il processo digitale dall'inizio alla fine e non mantenere quello tradizionale inserendo qualche cosa di digitale come esogeno al processo complessivo, beh, a questo punto potremmo risparmiare circa 1,5 miliardi complessivamente come sistema paese. 1 miliardo sono le stime che riguardano la pubblica amministrazione e circa 0,5 miliardi quello che riguarda il mondo delle imprese. Poi il tema è che se riusciamo a fare bene tutte queste cose, l'appetito viene mangiando, si può dire, e si può passare dalla sola fattura a trasferire questi principi della digitalizzazione anche all'ordine, ai documenti per esempio legati alla consegna, all'integrazione con la fase di pagamento, e i benefici in questo caso potrebbero essere addirittura 6 volte tanto. Quindi anche in questo caso l'Europa, con tutti i difetti dell'Europa, ci salverà. Dovrebbe semplificarsi tutto questo meccanismo, però probabilmente anche in un ambito europeo, di standard europeo, bisognerà comunque sempre avere servizi o software esterni, e quindi non si potrà più far da soli. Del resto la digitalizzazione delle aziende prevede l'acquisto di software, e quindi questo è solo un tassello, come dicevamo poco fa. Bene, adesso cambiamo argomento. Solo per i nostri ascoltatori in podcast, parliamo di un provvedimento che ha fatto molto discutere in settimana. Si tratta di un emendamento proposto dal governo ad un provvedimento più ampio che riguarda il terrorismo, conosciuto anche come antiterrorismo. Il governo aveva fatto un emendamento che potenzialmente poteva mettere sotto controllo tutti i computer di tutti gli italiani, cosa dalle conseguenze devastanti. Stefano Quintarelli, che oltre ad essere esperto di internet e di tecnologia è anche un deputato di Scelta Civica, si è accorto di questa, non uso termini scurrili o scorretti, di questo emendamento, diciamo così, ed è intervenuto. Allora ci siamo fatti raccontare da Stefano Quintarelli che cosa prevedeva questo emendamento, questa modifica proposta dal governo. Tra l'altro è un tema su cui il governo vorrà tornare, quello del controllo della rete internet. Un po' in tutta Europa c'è questa tendenza, però il problema è se non si esagera, ok, ma se si esagera si toccano le libertà dei cittadini. Stefano Quintarelli. La cosa è stata approvata in commissione lunedì e io me ne sono accorto leggendo gli atti della commissione, e la legge poi arrivava in aula mercoledì. Ho presentato un emendamento successivo ed uno correttivo. In pratica l'emendamento approvato, l'emendamento del governo approvato in commissione, prevedeva, non per tutti i reati, per tutti i reati per cui è prevista l'intercettazione, la facoltà di intrudere i computer degli utenti, dei sospettati, degli indagati, con dei trojan atti a carpire non solo le comunicazioni, ma anche i dati contenuti all'interno del computer. Ora la cosa è molto diversa, perché evidentemente un'intercettazione avviene all'insaputa della persona intercettata, la perquisizione invece avviene con la persona, viene a saperlo, cioè se ti sequestrano un computer, se ti sequestrano qualcosa, ti viene notificata il sequestro, ti viene notificata la perquisizione. In questo caso quindi era una cosa strana il fatto che Per quanto riguarda l'intercettazione delle comunicazioni, rientra nella segretezza normale, ma il fatto che segretamente si potesse acquisire tutto senza che l'utente ne fosse informato. Quindi prima cosa, non solo le comunicazioni, ma anche tutti i dati presenti, quindi diciamo la profondità dell'intervento. Il secondo punto era l'estensione dell'intervento, perché ricordo eravamo all'interno del provvedimento sull'antiterrorismo, ma questa cosa non era limitata al terrorismo, bensì a tutti i reati per cui è prevista l'intercettazione. L'intercettazione è una cosa abbastanza meno invasiva, come ho detto poco fa, no? Menore profondità rispetto a questa, ed è prevista anche per reati quali l'ingiuria, la diffamazione, la contraffazione, che vuol dire sostanzialmente anche la pirateria, quindi violazioni di copyright, e tutta una serie di altri fattispecie, dal mio punto di vista molto meno gravi che non il terrorismo, piuttosto che la pornografia, il commercio di organi. Ecco, quindi questa è stata la cosa, ne ho scritto sul mio blog parlamentare, un Tumblr, quando l'ho notato e ho presentato questi emendamenti. A questo punto si è capita l'entità della cosa e niente, poi alla fine è stato stralciato. Allora, di questo si tornerà a parlare all'interno della discussione relativa alla legge sulle intercettazioni che sarà in aula tra qualche settimana. Naturalmente è un ambito più consono rispetto alla legge antiterrorismo. Il tema è, lo ripeto e lo ribadisco, anche un po' complicato se volete, ma insomma sostanzialmente oggi è possibile intercettare le nostre comunicazioni, che siano telefonate, email, messaggi con vari sistemi anche online. Il governo, con poi bisognerebbe andare a vedere anche chi, qual è la manina che ha messo lì quell'emendamento, il governo invece avrebbe voluto oppure vorrebbe, usate un po' il verbo che volete, ma lo vedremo anche nelle prossime settimane, entrare nei computer dei cittadini. E come diceva Stefano Quintarelli, questo è come una perquisizione che non è regolata come le intercettazioni. Quindi su questo va fatta una meditazione molto seria, molto approfondita, e non con un emendamento messo lì all'interno di una commissione. Qua la serietà di alcuni funzionari barra politici è veramente deplorevole. Concludiamo questa puntata di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione. Oggi alcuni argomenti sono risultati forse un po' complessi, però ne abbiamo parlato perché la tecnologia entra di prepotenza anche all'interno della pubblica amministrazione, e insomma la pubblica amministrazione proprio semplice non lo è. Parleremo nei prossimi mesi, direi, anche di altre cose che stanno accadendo nella pubblica amministrazione, come ad esempio il sistema nazionale di login. Tutti i cittadini avranno un proprio login per entrare potenzialmente in tutte le banche dati, in tutti i sistemi online della pubblica amministrazione. Bene, concludiamo. Ci trovate sulla nostra pagina Facebook, su Twitter, sul nostro nuovo sito internet. Mandateci le vostre email, le vostre considerazioni o le vostre domande al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Io sono Enrico Paglierini, ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds.